con Zero Calcare per parlare della sua mostra al Maxi. Ben trovato. Ciao. Allora, intanto una lunga durata alla mostra. Sì, la mostra dura un botto in realtà perché è iniziata il 10 novembre e dura fino al 10 di marzo, quindi sono 4 mesi. Sì. Quanti lavori contempla? Sono un sacco, non li abbiamo contati, ma penso che siano all'incirca 500 pezzi in tutto. E che sono divisi in quattro sezioni in realtà, che sono una sezione che è quella un po' più conosciuta dalle persone pure che l'hanno conosciuta negli ultimi anni, si chiama Pop, e so, ci stanno le tavole originali del blog, le tavole dei libri, quelle cose che sono state un po' più viste. Sì. Poi ci sta una sezione che si chiama Non Reportage, in cui ci stanno tutti i lavori che sono stati definiti tipo di osservazione della realtà, in cui ci stanno le tavole sul Kurdistan, in realtà anche lavori più vecchi che risalgono anche al G8 di Genova del 2001 e tutto quel pezzo là. E poi ci stanno le due sezioni che invece sono quelle un po' più sconosciute al pubblico grosso, che sono una chiamata dal Maxi Lotte e Resistenze, che in realtà è una sezione super collettiva, nel senso che ci stanno un sacco di lavori fatti per gli spazi occupati, i centri sociali negli ultimi 18 anni, se non sbaglio, e che è la sezione che più spesso in qualche modo è stata, magari i lavori che ci stanno dentro sono stati pensati insieme a assemblee, collettività, e sono stati pensati insieme, decisi insieme, ragionati insieme, appacchinati insieme, spesso sono stati anche impaginati da altri, e quindi c'è tutta quella parte del lavoro, locandine, cortei, eccetera. E poi c'è la parte che per me era quella più complicata, che era la parte del punk, e che raccoglie tutta una serie di illustrazioni per fanzine, copertine dei dischi, locandine dei concerti. È quella che mi metteva anche un po' più in difficoltà, perché un po' per la natura stessa anche del punk è quella che, diciamo, che chi m'aveva, anche i gruppi che magari mi avevano chiesto quella locandina 10 anni fa, tutto avrebbero pensato, tranne di trovarsi poi magari 10 anni dopo illuminati da un faretto in un museo di Roma Nord, diciamo, pure anche in maniera legittima, diciamo, per le scelte che uno fa quando suona quella musica là. E quindi ho provato su quella sezione là a fare un appello prima, ho girato un po' su Facebook, eccetera, chiedendo prima se qualcuno non ci voleva stare, non voleva vedere il nome del gruppo suo, del suo spazio all'interno del Maxi, di dirmelo, e io l'avrei tolto. Quindi diciamo che quello che c'è sta, in teoria, dovrebbe essere tutto abbastanza consapevole, spero che non avessero determinato nessuno, nel Senti, caso qualcuno me lo dice e io levo il materiale. la scelta dei pezzi e l'organizzazione in sezioni è tutta tua? Nel senso che la scelta dei pezzi è stata decisa insieme alla curatrice, che è del Maxi, che è Giulia Ferracci, e che ha fatto un lavorone rispetto anche all'allestimento, al concetto della divisione in sezioni, eccetera, insieme anche a Oscar Bioti, che è stato l'altra persona che mi ha aiutato un sacco nella cura di questa mostra. Poi quello che è stato, diciamo, molto su impronta mia, che era quello che volevo, è che questa mostra in qualche modo rispecchiasse un po' tutto il percorso che avevo fatto io e fosse rispettosa del pezzo di storia che racconta, che non è soltanto mio, ma è di tanti, e quindi cercasse di non edulcorare nulla rispetto alla nostra storia, perché io avevo il terrore che in qualche modo, finendo al Maxi, magari ci sarebbe stata una cernita dei materiali più accettabili e più presentabili. Invece ci tenevo un sacco che ci fosse un po' tutto, e effettivamente poi loro sono stati molto aperti Il nell'accettarlo. periodo coperto è intorno ai 20 anni. Praticamente sì, nel senso che in realtà i primi lavori sono del 99-2000, forse sì, dal 99 al 2000, quindi in realtà sono un po' meno di 20 anni, 19. Una curiosità che mi è venuta in mente sentendoti è la prima vera storia rispetto alla sintesi della tavola del segno. La prima storia come è venuta fuori? In realtà questa roba è strana da dire, perché non so esattamente qual è la prima vera storia. Nel senso che io ho fumetti affastellati, fatti veramente da piccolissimo a scuola, fumetti fatti copiando Topolino, eccetera. Se io dovessi pensare a due prime storie della vita mia, cioè la prima che è uscita, diciamo, dalla mia cameretta, che credo che intorno ai 16-17 anni, è finita su una fanzine punk. In realtà era una storiella, parlava dei punk skinhead, ma veramente antidiluviana e vista da pochissimi. E quella un pochetto più, erano un paio di pagine, quella un po' più costruita, in verità, del fumetto vero e proprio, è avvenuto al ritorno dal G8 di Genova del 2001. Anzi, in realtà non esattamente al ritorno, ma circa 7-8 mesi dopo, ovvero quando c'erano stati tutti gli arresti per devastazione e saccheggio, 25 arresti in giro per l'Italia, e io avevo 17 anni, al G8 l'avevo vissuta con un'esperienza super intensa, e quando avevo visto questa storia degli arresti, in qualche modo era come se mi sembrasse che c'era qualcosa che si continuava a canire su chi era stato a Genova. E raccontare quella storia là a fumetti era un pochetto pure un modo per esorcizzare e parlare di quella cosa là. E è stata la prima storia che poi ho fatto vedere agli altri, che è stata venduta come poster per le spese legali, insomma, quello che è stato un po' l'inizio di tutto. Senti, quali erano gli autori e le autrici, che ti piacevano, che ti piacciono tuttora e che puoi considerare un po' riferimento anche rispetto al lavoro che poi hai intrapreso? Essendomi letto praticamente tutto, nel senso che io me ne leggevo i fumetti da Topolino, Mini, Diremmolla, i manga, i supereroi americani, eccetera, veramente ho fatto un mischione di un sacco di cose. Però quelli da cui ho copiato di più, al netto che Topolino è quello da cui ho copiato di più all'inizio, poi però sicuramente Jamie Hewlett di Tank Girl l'ho saccheggiato tantissimo. E poi, in verità, quelli più legati anche alla scena mia, in realtà io, Cristiano Rea, che faceva le locandine dei concerti punk a Certo, Roma, l'ho certo. copiato un sacco, ho copiato tanto anche Claudio Calia, Le Mani, che è un altro, Claudio Calia faceva le illustrazioni, io lo conoscevo per le illustrazioni delle copertine di Senza Sicura, ma anche Alessio Spadaro, che in realtà poi ho conosciuto, che era di poco più grande di me, però già pubblicava i fumetti, gli ho copiato la maniera in cui si disegnano le mani, cioè in realtà ho fatto un mischione di un sacco di gente. Vedere questo grosso corpo di tuoi lavori esposti, che impressione ti ha fatto rispetto anche al percorso che stai facendo artisticamente? Mi ha fatto impressione, in realtà, un sacco, mi ha fatto impressione come per la durata, diciamo, nel senso che mi è sembrato che alla fine, vedendoli, si rivedeva un po' la storia della vita mia, ma anche la storia di un pezzo di città, di un pezzo di una comunità che ci ho avuto intorno per un sacco di tempo, e mi sono accorto che un po' di cose che disegnavo, ma non un miliardo di anni fa, anche soltanto 7-8 anni fa, è come se mo adesso sembrassero vecchissime e parlassero proprio di un altro mondo, di un altro universo. Sì. Non so perché io mi sono staccato, Sì. proprio perché mi sembra che sono cambiati tantissimi tempi, Sì. che me ne accorgevo vedendo pure dei ragazzini che venivano lì alla mostra, e che tutta sta gente bardata, incappucciata, che magari sta nei disegni dei primi anni 2000, non capivano proprio che stavano a fare, perché c'erano la faccia coperta, dove è qualcosa che magari stava molto di più nell'immaginario collettivo 10 anni fa, adesso è proprio un po' scomparso. E questa cosa qua mi ha fatto impressione, perché poi anche io ho disegnato delle cose diverse, non perché sono cresciuto, ma semplicemente perché è cambiato quello che ci stava intorno. Questa cosa mi ha fatto più strano. E il titolo un po' sulla difensiva? In origine era proprio una cosa che era riferita a me stesso, come sentimento individuale, insomma. Io ho fatto Sì. un'illustrazione che si chiamava addirittura alzare muragli, scavare fossati e nutrire coccodrilli, che era proprio una maniera per dire non mi rompere il cazzo sostanzialmente. E lo volevo tenere, poi mentre lo provavo a raccontare come eventuale titolo della mostra, da una parte sta roba dell'alzare muragli che sembrava veramente troppo un riferimento a Trump e quant'altro, ma poi in generale proprio questa frase qua comunque sembrava alludere pure, non sembrava tanto alludere a una questione personale, ma sembrava alludere invece al momento politico italiano e internazionale, e allora a loro del Maxi gli piaceva questa doppia lettura, ma in realtà nasceva proprio come una cosa personale. Senti, nel futuro, nell'immediato futuro, un'ulteriore commistione di linguaggi per te? Io so che vorrei fare un cartone animato, sono Ah. fissa con questa cosa Ah, ah, ah. da un po' di tempo, ho provato a studiacchiare qualcosa, sto provando a capire come si può fare a livello produttivo, ho una storia in testa che vorrei raccontare in animazione, Sì. perché è proprio cioè il medium giusto per raccontare quella storia lì, è che mi sono reso conto che i cartoni sono una cosa lunga, lenta, che bisogna fare con un sacco di gente e con qualcuno che ci mette i soldi, e quindi questa roba può essere che mi impiegherà un po' di tempo prima che veda la luce. Ok, allora io ricorderei la mostra al Maxi dal 10 novembre al 10 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento a Zero Calcare. Un abbraccio e a presto. Oh, grazie mille, dai, a presto.